Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Salva Danaio, che come ci ha già anticipato il nostro Simone Spezia nel corso del giornale radio, appunto si occupa di pensioni, perché sono tante le novità che ci aspettiamo dalla manovra del nuovo governo Monti. Il decreto è atteso per lunedì. Fra le varie novità ci sono, appunto, tra le più attese e discusse, quelle che riguarderanno le pensioni. Perché? Perché ci si aspetta una stretta sui pensionamenti, sui trattamenti di anzianità, quelli legati prevalentemente al canale contributivo, con l'innalzamento della soglia di uscita attualmente a 40 anni. Questa soglia di 40 anni è quella che, una volta raggiunta, permette di accedere alla pensione indipendentemente, appunto, dall'età anagrafica. Ora, la prospettiva è che possa essere aumentata di uno o addirittura più anni, anche tre. Inoltre, tra le altre novità che potrebbero arrivare, potrebbe essere bloccato per il 2012 l'adeguamento della pensione al costo della vita, l'inflazione, un mancato agganciamento che, con l'inflazione prevista al 3% per il prossimo anno, potrebbe comportare, secondo i dati diffusi nei giorni scorsi, secondo questo calcolo che è stato fatto dalla CGA di Mestre, un taglio medio minimo di 280 euro per ciascun pensionato. E queste sono, appunto, le due macro aree all'interno delle quali vorremmo muoverci questa mattina a Salva Danaio. Le novità potrebbero essere anche altre, ma noi stamattina vorremmo focalizzare l'attenzione su queste per spiegarle ai nostri ascoltatori, a prescindere dal fatto che poi, naturalmente, lunedì in realtà le novità potrebbero essere anche altre e quindi ci toccherebbe successivamente rifare di nuovo la trasmissione. Ma in ogni caso prepariamo il terreno sulle riforme in arrivo. Non c'è neanche bisogno di spiegare quanto queste ipotesi interessino direttamente i cittadini. Quindi i possibili scenari di novità per il sistema pensionistico. Raccogliamo, come sempre, le vostre considerazioni sulle novità previste all'800 24 00 24. Se volete intervenire in diretta, ci potete anche scrivere al 349-238-6666, all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it. Da qualche giorno anche noi raccogliamo le vostre riflessioni sul social network, su Facebook. Naturalmente c'è l'indirizzo che è quello riferito direttamente alla nostra trasmissione, salvadanaio-radio24. Allora, prima di tutto questo, non vi ho neanche presentato l'ospite che sarà con noi questa mattina. L'avvocato Giampiero Falasca, esperto in materia previdenziale per il Sole 24 Ore. Avvocato, buongiorno e bentornato a Salva Danaio, buona giornata. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Sono giornate molto calde per lei, perché ogni ipotesi di novità le deve interpretare, ovviamente, anche per il nostro quotidiano. È un esercizio piuttosto faticoso, immagino, però insomma lei già si sta cimentando su questo da diverso tempo, per cui non la spaventeranno neanche, immagino, le prossime novità. Poi commenteremo. Diciamo che... L'estate è stata molto impegnativa. Infatti. Allora, le so già anticipare che ci sono molti ascoltatori che naturalmente stanno già sulla soglia dei 40 anni di contribuzione, che quindi avrebbero in mente di poter andare in pensione abbastanza in tempi rapidi e hanno il timore, appunto, che questo traguardo possa sfuggire. Magari proprio a loro cominceremo a dare subito la parola non appena vi ho raccontato anche quello che accade oggi in borsa, perché vale la pena raccontarlo, visto che molti ascoltatori spesso ci accusano di enfatizzare tanto le giornate negative sui mercati, ma ci sembra anche naturale perché ci preoccupa e quindi vogliamo mantenerlo sempre ben presente, questo campanello d'allarme. Anche le giornate positive però le vogliamo valorizzare. Oggi non è esattamente quella di due giorni fa, perché abbiamo visto due giorni fa rialzi di oltre il 4, 4,5%, 5% sulle piazze, però anche questo punto e mezzo abbondante che le piazze europee oggi mettono a segno ci pare il caso di appunto enfatizzarlo, come dicevo, ma soprattutto il più 2,22% che mette a segno Milano. Cosa premiano oggi le borse? Le parole della cancelliera tedesca Angela Merkel, che, parlando appunto al Parlamento tedesco, ha aperto timidamente, l'avrà fatto anche sicuramente con una grande fatica verbale, alla prospettiva, appunto, che i paesi dell'Eurozona possano andare verso questa intesa unione fiscale. Appunto, è necessaria una riforma dei trattati europei per riorganizzare l'architrave dell'Eurozona. Si è intravista anche un'apertura per la costituzione di Eurobond, che potrebbe essere lo strumento migliore in una fase come questa per proteggere l'area euro dalla crisi dei debiti sovrani, questa prospettiva appunto indicata dalla cancelliera tedesca dopo le parole già piuttosto pesanti delle ultime ore del presidente francese Sarkozy, sono state appunto accolte molto positivamente dal mercato, sia azionario ma soprattutto quello obbligazionario, guardiamo, perché le indicazioni delle ultime ore hanno portato a scendere nettamente il differenziale di rendimento fra i titoli italiani e quelli tedeschi, siamo sui 430 punti base, soglia che non vedevamo da un po', che è ancora molto alta, perché sopra i 400 punti base già a luglio il nostro differenziale di rendimento c'era arrivato ed è stata la soglia che ha cominciato ad obbligare la Banca Centrale Europea ad intervenire sul mercato secondario per comprare titoli di Stato. Quindi questa azione probabilmente ancora continuerà, siamo ancora sopra i 400 punti base, che è comunque una soglia fastidiosa, ma siamo ben lontani dai 500 insistenti delle ultime settimane, che invece erano diventati veramente una soglia di autentico allarme. I migliori titoli di Milano li indico solo rapidamente: Fondiari ancora più 12% anche oggi, Monte dei Paschi più 5,41%, Intesa più 5,32%, Fiat più 5%, Mediolanum più 3,61%, Tenaris più 3,59%, discesa di Diasorin dello 0,8%, Enel Green Power meno 0,06%, sono gli unici due titoli negativi in questo momento a Milano. Ricordo, oggi arriva il rapporto sulla disoccupazione americana, sempre l'appuntamento centrale di inizio mese, l'euro sul dollaro a 1,34,82. Per la borsa è tutto, andiamo alle pensioni. Non resta ormai molto da aspettare, sembrerebbe, per i dettagli della manovra. Aumenteranno invece molto probabilmente gli anni da attendere prima di andare in pensione. Tra le ipotesi allo studio del governo c'è infatti l'innalzamento della soglia di uscita, attualmente fissata ai 40 anni di contribuzione. La novità riguarderebbe i pensionamenti di anzianità con il solo canale contributivo dei 40 anni, ovvero quelli ai quali si accede a prescindere dall'età anagrafica. La soglia di accesso alla pensione, quindi gli anni complessivi di lavoro in cui sono stati versati i contributi, potrebbe essere aumentata di 1 o di 3 anni. Un cambiamento che non lascia indifferenti partiti e sindacati e che interessa direttamente molti cittadini. La misura potrebbe inoltre andare ad aggiungersi all'aumento delle quote, la somma di età e anni di lavoro, che determinano la possibilità di accedere alla pensione. Attualmente a 96, potrebbero salire fino a 100 nel 2015. Sembra poi concretizzarsi per il 2012 il blocco dell'adeguamento al costo della vita. All'aumentare dell'inflazione, insomma, non corrisponderebbe un parallelo aumento dell'assegno. Un mancato agganciamento che, con l'inflazione prevista al 3% per il prossimo anno, potrebbe comportare, secondo i dati della CGA di Mestre, un taglio medio annuo di 280 euro per ciascun pensionato. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, per gli interventi in diretta e a testimonianza di quanto siate sensibili sul tema, soprattutto le persone che hanno, come dire, il traguardo della pensione dietro l'angolo e che adesso cominciano a vederselo sfuggire, e avete già cominciato in tanti a telefonare. Allora, avvocato Farasca, prima di cominciare la mia chiacchierata con lei, le faccio subito sentire quello che vogliono dirci i nostri ascoltatori, cominciando con Carlo da Monza, che, se non sbaglio, ha attirato la nostra attenzione su una lettera pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Carlo, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, è un piacere sentirla. Ogni tanto provo, ma il vostro numero è un po' un torno all'otto per prenderlo. Avevo 3 o 4 cose, mi interessava sentire questo Castello Franco. Sì. Dunque, io non so chi sia, io posso anticipare, sono un privilegiato perché ho 73 anni, lavoro da quando ne avevo 17, perciò sono in pensione da 15 anni. Mm-hmm. Continuo a lavorare perché faccio agente di commercio, pago qualche tassa perché fanno il cumulo, però non voglio stare a casa a dar fastidio a mia moglie che fa le pulizie, devo sollevare i piedi dal tappeto quando passo la sera. Vabbè, comunque anche giusto che lei continui a contribuire, no? Esatto. Al ma paese. Questo signor Castello chi è? Ma perché fa questi? Ma perché non queste persone, come mio fratello tra l'altro, che aspirava con ansia alla pensione, dovremmo mandarli in qualche villaggio turistico svizzero a pagamento anche dei contribuenti. Va bene, Carlo, adesso un po' come per tutte devo anche un po' spiegare in che cosa consiste il contenuto di questa lettera di questo lettore del Corriere della Sera. La sua lettera è stata intitolata così: sono un babbeo, non un privilegio, non è un privilegio lasciare il lavoro dopo 40 anni. Lui però racconta anche la sua storia, peraltro ha una situazione familiare, da quello che capisco, piuttosto delicata, che gli renderebbe necessario necessario adesso potersene andare in pensione, però lui dice ho 57 anni e lavoro dall'età di 13. Il 30 ottobre 2013, se sarò vivo, taglierò il traguardo dei 40 anni di lavoro, e quindi da lì insomma lui fa tutto il ragionamento, non capisce perché non dovrebbe avvalersi di questa opportunità contributiva per andare in pensione. Comunque, cogliendo le perplessità di tutti, avvocato Falasca, da che cosa cominciamo? Intanto il tema è: questi 40 anni non sono più sufficienti. Secondo le previsioni del Ministero del Welfare, l'uscita di scena dal mondo del lavoro secondo esclusivamente il requisito contributivo potrebbe aumentare. Sì, sì, diciamo così che oggi tutti i giornali fanno delle ipotesi, molte di queste ipotesi però si accavallano e c'è il rischio in effetti di capirci poco. Allora io, se posso, mi è piaciuta molto la scheda prima, se posso sintetizzarla in 10 secondi, io quello che mi sembra di capire, che è la direzione in cui andrà Elsa Fornero, che tra l'altro è stata in questi anni una delle firme di punta del Sole 24 Ore, sì. Quindi diciamo è impegnativo per il vostro editore come ministro, diciamo l'ipotesi allo studio del Zapotero mi sembrano fondamentalmente, cioè di base c'è il superamento della distinzione tra vecchiaia e anzianità. Cioè questa è la riforma madre che viene poco evidenziato, che sarebbe veramente una riforma importante, cioè finisce la storia per cui c'è un'età che dichiariamo all'Europa, i 67 della vecchiaia, ricordate la legge la lettera del precedente governo, ma poi c'è un'età in cui si può uscire comunque, che è quella della pensione di anzianità. L'Europa insomma ha sempre detto che questa condizione è un'anomalia per quello che è riguarda l'età. Quindi diciamo l'idea è di andare su un sistema unico di uscita che ruota intorno, io ci vedo quello, cioè riferisco quello che leggo dai giornali, intorno a quota all'età di 67 anni. Questo non significa che non si potrebbe andare prima. Chi va prima tra i 62 e i 66 viene penalizzato, chi va dopo tra i 68 e i 70 viene premiato. Penalizzato banalmente con una riduzione dell'assegno, insomma, secondo calcoli ben precisi. Diciamo, in questo sistema unico si innesterebbe il tema dei 40 anni, per cui scomparirebbero le pensioni di anzianità con le quote e quant'altro, ok? Che tra l'altro sono state tanto faticosamente introdotte perché hanno radicalmente complicato la vita a molti. Infatti, sì, perché poi rendono, diciamoci la verità, rendono anche difficile comprendere e far comprendere agli altri il sistema previdenziale, perché noi diamo per scontato che un cittadino sappia di cosa parliamo, ma per un cittadino la pensione è la pensione. Poi andare a iniziare a capire la vecchiaia e le anzianità, cioè l'abbiamo visto quando un mese fa appunto ci fu la famosa lettera di Brunetta, no? Qualche giornale incautamente titolò il governo si impegna a portare l'età a 67 anni, cioè addirittura alcuni giornali non capirono la differenza tra anzianità e vecchiaia. Sono due sistemi di uscita, ma il risultato è sempre la pensione, diciamo appunto, quindi il superamento di questo, e il governo prevede però di mantenere la pensione con i 40 anni di contributi, che è un trattamento che viene riconosciuto alle persone, diciamo, che hanno lavorato tanto. Diciamo così che la logica di politica del diritto che c'è dietro è che persone che raggiungono i 40 anni di versamenti non gli può essere chiesto più nulla, a prescindere dall'età. Però per queste persone ci sarà un peggioramento, perché appunto resterà l'unica forma di pensione di anzianità esistente, ma appunto si dovrebbe salire o a 41 o a 42 anni. Fate attenzione, perché in realtà lo dice bene oggi il Sole, già non esistono più i 40 anni, perché dovremmo chiamarli 40 più 1. Esatto, perché è stata introdotta nei mesi scorsi la finestra mobile, sì. Cioè la finestra c'è anche per gli altri, però per gli altri pagare durante la finestra porta l'incremento poi dell'assegno. Per invece chi è arrivato ai 40 anni continua a versare durante il periodo della finestra, ma non incrementa. Falasca, ci dobbiamo fermare, credo che già la struttura di base delle novità che arriveranno l'abbiamo già spiegata. Adesso abbiamo la nostra prima pausa, poi ricominciamo anche con gli ascoltatori, le domande sulle novità in arrivo tra pochissimo. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, il piano per completare nel segno dell'equità e del rigore la riforma delle pensioni è pronto, lo ha lasciato capire proprio ieri il ministro del lavoro Elsa Fornero da Bruxelles. Le novità in arrivo sono tante, intanto probabilmente tutte le nuove pensioni del futuro verranno calcolate esclusivamente con il metodo contributivo, c'è però da spiegare un'eccezione anche in questo ambito, c'è il cosiddetto contributivo pro rata per tutte quelle pensioni che praticamente per tutte quelle pensioni che rientrano nell'ambito anche del trattamento previsto dalla riforma Dini del 96, quindi anche su questo poi l'avvocato Falasca ci aiuterà a capire qualcosa di meglio, ma il tema grande, la grande partita si giocherà sulla pensione di anzianità, quella che viene percepita da chi ha maturato 40 anni di contributi e magari li sta maturando adesso e non capisce se potrà far valere questo requisito contributivo o seppure dovrà rinunciare appunto ad andare in pensione e rinviare il ricevimento appunto dell'assegno pensionistico. Peraltro, avvocato Falasca, poi ritorniamo anche agli altri ascoltatori che non le lascio neanche immaginare in quanti ci stanno chiamando, la pensione di anzianità, in realtà la branca della pensione di anzianità è molto più ampia, perché appunto è quella che viene disciplinata secondo il cosiddetto sistema delle quote, no? C'è il mix di età anagrafica e contributi appunto versati. In realtà lo spiega anche il libricino del Sole 24 Ore che sarà in edicola domani, Tutto Pensioni, il manuale pratico sulle novità della previdenza, per chi va in pensione a prescindere dall'età, se si possiede un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, è una deroga a tutto il trattamento di anzianità, certo, se proprio dobbiamo essere precisi. Sì, infatti già oggi diciamo c'è anzianità e super anzianità, diciamo l'anzianità ordinaria prevede che si raggiunga la quota 96 con almeno 61 anni di età e quindi 35 di contributi, e dal 2013 la quota sale al 97. Tra l'altro le faccio notare una cosa che lei ha già notato, diciamo ad oggi sul banco degli imputati c'è la pensione di anzianità, e questo perché tutte le manovre estive hanno toccato quasi tutto tranne proprio che l'anzianità, quindi è un po' diciamo un ritornare sul discorso previdenziale, perché quest'estate non si erano sciolti questi nodi. E quindi stiamo a vedere un po' anche qua sulle quote, perché l'ipotesi B rispetto a quello che dicevo prima, cioè non facciamo l'uscita unica, ma appunto le quote il 96 e il 97 le portiamo a 100 entro il 2015, quindi sarebbe un po' la stessa cosa, anche se a mio avviso sarebbe un qualcosa di molto più complesso sul piano delle regole, perché io la sensazione che ho che le persone, poi magari lo sentiremo dopo, stiano pagando anche un gap di informazione, o meglio non di informazione ma di incertezza, cioè alla fine l'effetto finale che può creare questo tourbillon di modifiche è che uno non ci capisce più nulla sul quando andrà in pensione, e questo diciamo rende paradossalmente ancora meno sostenibile queste misure, quindi secondo me lunedì quando usciranno le norme bisognerà avere anche un occhio alla comprensibilità delle misure. Per fare un esempio, il sistema delle finestre è un sistema brutto, poco onesto, mi viene questa parola anche se forse un po' eccessiva, un po' forte, diciamo, sì. Poco trasparente con il cittadino, che alla fine fatica a capire, perché se io al cittadino dico che vado in pensione dopo i 40 anni ma poi gli metto una finestra che significa che sono 41, cioè in genere una sensazione di sfiducia nel sistema, quindi secondo me, lo dico perché Elsa Fornero è bravissima e secondo me sta già ragionando anche su questo, cioè devono essere regole trasparenti, certo, e soprattutto eque. Poi io mi rendo conto che fare, come dire, un ragionamento che ci faccia affezionare al concetto di equità, soprattutto a vantaggio delle nuove generazioni, perché deve andare in pensione adesso, come dire, c'è poca sensibilità su questo, perché ognuno è naturalmente portato a pensare alle proprie condizioni, ma io questo lo capisco, però qualche volta ci si deve anche un po' sforzare a come dire, a guardare anche avanti. Tra l'altro lei diceva che il sistema delle finestre, è poco trasparente, siccome è stato il nostro sistema sempre accusato di non aver avuto il coraggio di fare delle riforme forti, radicali e drastiche negli ultimi anni, si è preferito procedere appunto su queste micro riforme graduali e costanti che sono state fatte. Il sistema delle finestre ha portato a dei risparmi sulla spesa corrente appunto, che sono stati magari poca cosa rispetto a quello per le quali ci sarebbe stata necessità, però questo risultato lo ha raggiunto anche anche se poi ovviamente lo ribadisco, chi deve andare in pensione domani e gli si dice no guarda, e lo si sa magari il giorno prima, ci vai fra un anno o fra un anno e mezzo se sei un lavoratore autonomo, capisco che la frustrazione appunto sia tanta, però adesso dobbiamo fare un ragionamento più complessivo, e forse era questo anche il ragionamento che faceva l'ascoltatore iniziale, che se la prendeva con il lettore del Corriere della Sera che dice ma insomma io ho lavorato 40 anni, ho cominciato a 13 anni, ho bisogno di andare in pensione anche perché devo gestire problematiche appunto casalinghe, e però a 57 anni magari ancora, come dire, altri 30 e passa anni da vivere, avvocato Falasca, il punto è questo. Questo il punto è quello. Tra l'altro sa cos'è, adesso proprio per agganciarmi a quello che diceva lei sull'equità, l'ipotesi che citava lei prima e che io non ho ricordato è importantissima, cioè l'idea di passare per tutti con il contributivo pro rata. Quello è una misura che dà il senso al cittadino dell'equità, cioè che c'è un sacrificio e si ripartisce in maniera uguale per tutti, quindi quello è importante e andrà spiegata e andrà fatto capire che cosa significa. Infatti adesso ci arriviamo, avvocato Falasca, andiamo ancora sulle persone, sugli ascoltatori appunto che stanno maturando i 40 anni di contributi e che adesso vedono qualcosa che sfugge. Paolo da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ci dica. Buongiorno, ecco, la mia domanda era questa, io ho maturato a settembre i 40 anni di contributi. Per cui volevo sapere se sarò esente da ulteriori cambiamenti. Da tutte le novità. Allora, avvocato Falasca, perché ha maturato negli ultimi mesi 40 anni di contributi? Aveva l'applicazione della finestra mobile? Sì, lui avrà la finestra, però io credo, ovviamente ad oggi non sappiamo dargli risposta certa se lui è esente, però la tecnica, possiamo vedere i precedenti, cioè le riforme di quest'estate e anche il decreto 78 del 2010 hanno sempre tenuto fuori dalle novità chi in quell'anno maturava determinati requisiti. Quindi se verrà seguita questa tecnica, ripeto, se verrà seguita questa tecnica, l'ascoltatore dovrebbe essere esente, perché ad esempio si potrebbe dire non ci vogliono più i 40 ma i 41, ma diciamo il cambiamento non interessa chi matura entro il 31 dicembre 2011. Cioè, questa è la tecnica che è stata utilizzata per gli altri soggetti, quindi diciamo è possibile che... No, tra l'altro mi sto chiedendo perché ha raggiunto il requisito contributivo quest'anno, negli ultimi mesi. C'è un ascoltatore che ci scrive riferendosi ad un amico che ci scrive, Antonio ci scrive riferendosi ad un amico che dovrebbe andare in pensione il 29 febbraio del prossimo anno. Lui dice ha già ricevuto la lettera dell'INPS, per cui l'INPS ti comunica già che tu hai raggiunto il requisito contributivo. Non ti dovrebbe dare anche degli step l'INPS su quando appunto il primo assegno dovrà essere ricevuto, avvocato Falasca, per chi, ribadisco, ha già raggiunto il requisito quest'anno contributivo? Sì, nel senso che lei dice l'INPS dovrebbe comunicare già la data in cui si avrà l'assegno. Non so, o l'azienda, adesso qui veramente stiamo facendo anche, non vorrei generare ulteriore confusione, ma da quello... No, io credo che dopo quella lettera queste cose si stabiliscono. Fa la domanda di pensione e gli uffici gli daranno evidenza di questo. Però sa, alla fine di questi tempi cambia tutto ogni mese, quindi non scordiamoci che le regole sono cambiate 4 volte negli ultimi 2 mesi. Sentiamo Gianni da Reggio Emilia. Gianni. Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, guardi, quello che io volevo trasmettere è la frustrazione che si vive. Io ho lavorato in una ditta di 400 dipendenti e un bel giorno hanno chiesto di ridimensionare il personale. Sono stato a casa. Ed ero in lista di mobilità. Dopo una settimana ho trovato da lavorare un artigiano, ha chiuso, e dopodiché mi sono trovato che mi mancavano 2 anni all'ai 40 anni. Sono stato assunto a tempo determinato da un'altra azienda, ho raggiunto i 40 anni quest'anno a giugno, dovevo andare, secondo l'INPS, in pensione il 1/1/2012, poi con la finestra mobile ad agosto del 2012, e adesso vivi col panico di dire non andrò più. Io non ho lavoro, sono disoccupato. Se le sfugge anche l'assegno pensionistico, si vive ancora fino a 80 anni. Io ho il diabete, ho problemi di cuore. Chi mi assume a 56 anni? Per me la pensione era una liberazione. Gianni, io credo che queste sacche in qualche maniera verranno salvaguardate, adesso non ovviamente, sono ben lontana dai palazzi di Palazzo Chigi, dai palazzi appunto del governo, però per chi ha maturato i requisiti quest'anno, non lo so fino a che punto appunto questo appuntamento con la pensione verrà fatto slittare. Allora, avvocato Falasca, un lavoratore raggiunge i 40 anni di requisito contributivo, ritiene di poter andare in pensione, però il governo precedente appunto ha introdotto anche la finestra mobile che chiede al lavoratore di rinviare di un anno il suo pensionamento. Intanto in questo anno l'azienda si impegna a mantenere il posto del lavoro della persona interessata oppure... Sì, lo deve mantenere, non può licenziare per motivo della pensione, ma guardi che... Il signor Gianni ha colto il punto di caduta di tutto quello che ci stiamo dicendo, cioè io sono un sostenitore convinto del fatto che comunque stiamo andando in una direzione su cui non possiamo fare a meno, perché come ha detto lei vivremo altri 30 anni dopo la pensione. Detto questo, si apre una voragine, si apre un problema enorme, perché il mercato del lavoro spinge in una direzione che è opposta. Cioè, il mercato del lavoro oggi, e lo vivo io anche professionalmente in queste settimane, appena è ripartito un po' il tartan della crisi, è purtroppo ripartito il problema dei licenziamenti collettivi o individuali, e le persone che con maggiore facilità vengono espulse dai posti di lavoro sono le persone più avanti con l'età. Non è una regola generale, ci sono mille eccezioni e quant'altro, però è un fenomeno che accade. Quindi è chiaro che abbiamo un sistema strabico, perché diciamo, il sistema pubblico delle pensioni mi dice devi lavorare di più, ma poi il mercato del lavoro, che è privato ma in qualche modo è regolamentato da fuori, tira da una direzione opposta. Quindi chi scrive le regole, certo non nel decreto di lunedì, ma in questi mesi bisognerà sicuramente mettere mano anche all'altra gamba, che quella un po', cioè vanno create delle passerelle per queste persone, per cui devono trovare un modo poi di arrivare a coprire le contribuzioni, quindi vanno creati sistemi di politica attiva più efficaci, vanno creati ammortizzatori sociali, vanno creati periodi di contribuzione figurativa, cioè questo diventerà il problema, cioè se noi riuscissimo con la bacchetta magica a riformare le pensioni e a convincere tutto il paese che è giusto, avremmo fatto metà al lavoro, ma poi appunto quello è vero, però l'ascoltatore che ci ha raccontato poco fa il suo caso, che ha già una certa età, per carità, poi non è vecchio, è anche molto giovane, però per tutta una serie di problematiche sono già 3 anni che per raggiungere i 40 anni ci attacca come dire pezzi di attività professionale presso aziende diverse, quindi già lui negli ultimi 3 anni come dire ne ha già sprecati 10 della sua vita emotiva, quindi ci credo che non veda l'ora appunto di andare in pensione. Però, vabbè, avvocato Falasca, le faccio sentire anche Giuseppe da Reggio Emilia, perché ci dà modo, negli ultimi minuti che ci rimangono, di spiegare anche la questione che oggi troviamo su tutti i giornali, che è anche questa molto difficile da comprendere, del prorata. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, io la chiamavo perché ho bisogno di informazione. Io ho 63 anni, ho maturato 37 anni di contributi, sono costretto a stare ancora al lavoro perché ho delle esigenze familiari e volevo sapere quando andrò in pensione e come andrò in pensione con questa prorata, che non ho capito molto bene. Allora, lei ha 63 anni, quindi nel 1996, Giuseppe, da quanti anni già lavorava? Se lo ricorda? No, praticamente sì, dal 74. Quindi già il sistema retributivo. Benissimo, infatti, perché il punto è proprio quello. Giuseppe, la ringrazio. Allora, quando Giuseppe andrà in pensione, intanto, prima di poterglielo dire, perché forse qua non siamo neanche in grado, se le regole cambieranno di nuovo, avvocato Falasca, il tema è anche come gli sarà conteggiato il suo assegno, perché lui teoricamente allo stato attuale dovrebbe avere un calcolo prevalente con il sistema retributivo, perché lui già nel 96, quando è entrata in vigore la riforma Dini, lavorava già da più di 20 anni. Sì, a me sembra, adesso facendo un calcolo a mente rapidissimo, che lui possa andare anche domani mattina, o meglio, lui ha maturato i requisiti, può fare la domanda di pensione, aspetta i 12 mesi della finestra. Però lui per questioni sue aspettava. Ok, e diciamo che a lui non cambierà nulla, perché il contributivo prorata significa che da domani mattina i pezzi di vita lavorativa che restano a tutti senza eccezioni saranno valutati con le regole del contributivo. Per l'ascoltatore significa che gli ultimi 6 mesi, l'ultimo anno, gli ultimi 3 anni sono calcolati col contributivo e non col retributivo. L'impatto sull'assegno può essere credo di 30 euro al mese, se parliamo di questo. Quindi dal momento in cui entrerà la riforma Fornero sulle pensioni sì. prorata, lui da quel momento in avanti avrà un calcolo di quella parte di assegno sulla sì. base dei contributi versati, ma sì, tutto il sì. pregresso verrà calcolato percentualmente. Certo. Diciamo, più anni mancano al traguardo, più l'impatto del contributivo prorata è alto, diciamo. È chiaro. Speriamo di essere stati chiari anche con Giuseppe. Allora, abbiamo l'ultima telefonata che riusciamo ad assegnare, l'assegniamo a Mario da Roma. Non vi dico quante, io faccio anche molta fatica perché cerco di così cogliere delle telefonate che possano essere un po' rappresentative di tutte le persone che ci ascoltano. Peraltro anche su Facebook, su Salva Danaio, ci sono degli ascoltatori, c'è Gennaro che saluto, che è un amico molto affezionato alla nostra trasmissione, che ci chiede se dice, ma non ci potrebbe essere qualche distinzione fra lavoro logorante o no, il tema dei lavori usuranti, avvocato Folasca, è l'altro grande tema che pure dovrebbe essere oggetto di tutela molto stringente. Però guardi, c'è il decreto proprio l'hanno fatto quest'anno, che in sostanza leva tre punti, leva dei punti dalla quota per l'anzianità, quindi un bel passo in avanti. Che cosa vuol dire fatto. Leva tre punti dalle quote di anzianità? Che se la quota è 96, per chi ha fatto lavoro usurante si abbassa di c'è un sistema scalare, però mediamente da 2 a 3 punti, e quindi il lavoro usurante è già riconosciuto e dà diritto di andare in pensione esatto, in tempi leggermente anticipati. Peraltro non mi pare che questo sia un tema che potrebbe essere toccato dalle novità del ministro Fornero, perlomeno a giudicare da quello che leggo sui giornali, però vedremo, insomma, lo vedremo solo la prossima settimana. Mario da Roma, Mario, buongiorno. Pronto? Sì. Buongiorno, sì, chiamo da Roma. Senta, io ho fatto 60 anni a marzo, a dicembre del 2010 ho raggiunto i 36 anni di contributi. 36? No? Sì, e mi hanno detto che dal 1 luglio sarei potuto andare in pensione, però, cosa che non ho fatto perché per problemi familiari. Perché lavoro solo io, cioè i miei figli e mia moglie non lavorano nessuno. E quindi certo, comunque l'assegno sarà un po' meno. A me al patronato hanno sempre detto che potrei andare in pensione in qualsiasi momento. Volevo sapere per me se cambia qualcosa adesso. Certo, Mario, la ringrazio. Avvocato Falasca, lui ha già maturato il requisito, potrebbe essere nelle condizioni di andarci già. Per scelta personale ha preferito mantenere il posto di lavoro. Però le novità che sono in arrivo lo potrebbero anche, a chi ha maturato i requisiti, far slittare a questo punto il momento del pensionamento? Ma diciamo, rispondo un po' come prima. Ma nella tecnica usata negli ultimi anni, no, cioè chi ha maturato il diritto viene lasciato fuori da queste riforme, e quindi diciamo ormai tanto non può più cambiare decisione, diciamo che lunedì avrà la risposta, ma ritengo di no, cioè nel senso che la tecnica è sempre quella di tirar fuori chi ha raggiunto il requisito o lo raggiunge nell'anno in cui si fa una certa riforma. Ci rimane un minuto di tempo, avvocato Falasca, la dedichiamo un attimo a spiegare al tema della perequazione con l'inflazione per i trattamenti pensionistici, cioè appunto, perché nel 2012 questo adeguamento all'inflazione potrebbe subire un blocco. Vorrei solo sapere se saranno salvaguardate le pensioni minime. Ma penso di sì, però attenzione, perché in realtà erano già salvaguardate le pensioni minime quest'estate nella prima manovra, e poi l'hanno indurita un pochino, l'hanno cambiata un pochino la riforma, quindi non c'è tanto lì da salvaguardare, cioè, nel senso che c'è un blocco che già parte l'anno prossimo, quindi se si parla di fare un ulteriore blocco mi chiedo l'area di esenzione a quanto la fissano. Quindi sono tre, in genere due scaglioni, 1.400, i 2.200 e i 3.000, no? Insomma, da quello che leggo sui giornali lasceranno un'area che sarà esente dall'adeguamento all'inflazione, perché poi parliamo di... Sono le pensioni inferiori a 3 volte il minimo, sotto 1.405 euro. Sì. Quindi evidentemente resterà quella. Perché praticamente la minima, lo ricordiamo, è di circa 467 euro mensili, quindi fatto per 3, leggermente al di sotto. Va bene, siamo ancora nella riga delle ipotesi, avvocato Falasca, poi nel concreto ci andiamo nelle prossime settimane. Grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a lei. Grazie anche a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, al quale l'avvocato Falasca ha fatto anche i complimenti per la scheda che ha scritto per questa trasmissione. Grazie a Roberto Scaltritti in assistenza tecnica. Salva Danaio torna lunedì da Deborah Rosciani. Buona fine settimana a tutti.